24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il discorso della cancelliera tedesca Angela Merkel al Bundestag sul futuro dell'euro. Vi racconteremo la risposta del premier britannico David Cameron. L'Europa dà 2 mesi di tempo all'Italia prima di far scattare le sanzioni sui rifiuti in Campania. Oggi vi parleremo anche di immigrazione e agenda digitale, fino alla riflessione finale. Quanto è isolata oggi l'Italia in Europa? In apertura di edizione il discorso della cancelliera tedesca Angela Merkel al Bundestag che il futuro dell'euro è inseparabile da quello dell'Unione Europea perché l'euro è molto di più di una moneta e la volontà europea di rafforzare la stabilità e di affrontare insieme le sfide mondiali. La Merkel si è impegnata a fare di tutto perché l'Europa possa uscire più forte da questa crisi e ha ribadito la necessità di modificare i trattati di servizio. Il futuro dell'euro è inseparabile dal futuro dell'Unione Europea. Parole che pesano se a dirle la cancelliera Angela Merkel davanti al suo Parlamento, il Bundestag. Il nostro obiettivo è una Germania più forte in un'Unione Europea più forte, ha detto. Rassicurazioni che da una parte fanno tirare un sospiro di sollievo, dall'altra sono un altro ammonimento all'Italia, perché è proprio a Roma che Angela Merkel si è rivolta. L'Italia ha davanti a sé un'enorme sfida. È responsabile per il proprio futuro e per il futuro dell'Europa, ha detto la cancelliera senza mezzi termini. Lei, lunedì, quando il premier Monti presenterà le nostre misure per uscire dalla crisi, sarà a Parigi da Sarkozy, l'altro protagonista dell'Unione che continua a premere guardando ai conti di casa nostra. E se Angela Merkel non fa passi indietro sulla questione degli eurobond, che ribadisce non sono un contributo alla soluzione della crisi, una decisa apertura arriva all'invito della BCE di Mario Draghi. L'Europa è sul punto di realizzare un'unione fiscale. È in agenda, dice. Parola di Angela Merkel. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se i trattati europei saranno modificati per riformare le regole dell'Eurozona, gli interessi britannici saranno protetti e rafforzati, lo ha affermato il premier britannico David Cameron al termine di un incontro all'Eliseo con il presidente francese Nicolas Sarkozy. È chiaro che per il presidente della Commissione Giuseppe Barroso abbiamo una democrazia europea che completa quelle nazionali, ma che deve essere approfondita. Così la portavoce della Commissione, commentando il discorso di Nicolas Sarkozy giovedì a Tolone, in cui lo stesso Sarkozy aveva ipotizzato la rifondazione dell'Europa. I rappresentanti dei creditori internazionali della Grecia, cioè FMI, Unione Europea e BCE, saranno ad Atene il 12 dicembre dopo la riunione del vertice europeo e l'approvazione da parte del Parlamento ellenico del bilancio dello Stato per il 2012 per portare avanti le procedure che riguardano l'attuazione del nuovo programma economico. Le banche centrali europee potrebbero erogare prestiti passando attraverso il Fondo Monetario Internazionale fino a 200 miliardi per sostenere i paesi in crisi, lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Seduta positiva per le borse europee che chiudono lontane dai massimi di giornata. I listini hanno beneficiato delle parole della cancelliera tedesca Merkel che hanno lasciato intravedere possibili interventi strutturali per risolvere la crisi del debito comunitario. A Piazza Affari il FTSE MIB è salito dell'1,52% guidato dalle banche. Effetto Angela Merkel sulle borse europee. Le parole della cancelliera tedesca che giudica vicina la creazione di un'unione fiscale in Europa e ha confermato l'intenzione di voler cambiare i trattati dell'Unione nel vertice del 9 dicembre hanno sostenuto i listini. I mercati puntano sul raggiungimento di un'intesa politica che apra la strada a interventi concreti per la soluzione della crisi del debito. A Piazza Affari il FTSE share è salito così dell'1,41% e il FTSE MIB dell'1,52%. In prima fila le banche con il Monte dei Paschi che ha guadagnato l'8,7%, BPER il 5,4%, Intesa San Paolo il 4,6% e Unicredit il 3,05%. Bene anche Fondiaria Assai più 5% che ha annunciato la possibile cessione al Credit Suisse di una quota del veicolo in cui saranno collocate le partecipazioni strategiche della compagnia. Debole infine Finmeccanica, meno 1,6%, all'indomani dell'addio del presidente Pier Francesco Guarguaglini. Paolo Paronetto da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il commissario europeo all'ambiente Janez Potocnik ha dato a Napoli una moratoria di 2 mesi prima di fare scattare le sanzioni comunitarie. Lo ha annunciato il ministro dell'ambiente, Corrado Clini. Abbiamo tempi strettissimi per intervenire in maniera convincente, altrimenti sarà una multa colossale che pagheremo tutti. Sentiamo. altri 2 mesi prima delle sanzioni. Tanto l'Europa ha concesso a Napoli per chiudere il capitolo emergenza rifiuti. Abbiamo tempi strettissimi per intervenire, ha commentato il ministro dell'Ambiente Clini, dandone l'annuncio. Sono solo 2 mesi, non è un tempo in cui si riesca a costruire un inceneritore e nemmeno una discarica. Ma, ha aggiunto il ministro, non è tanto questo che ci chiede il commissario europeo all'ambiente Potocnik. Piuttosto vuole un piano credibile. E nemmeno un inceneritore lo è, se non viene inserito nella programmazione di un ciclo completo di rifiuti. Domani Clini sarà a Napoli, incontrerà il sindaco De Magistris, che si è detto contento di riceverlo perché, ha spiegato, i problemi si affrontano attorno a un tavolo. Anche quello, c'è da scommetterci, di un nuovo possibile impiego dell'esercito a Napoli. Una proposta che ha seminato zizzania tra i due. Per il sindaco non è assolutamente necessario. Per il ministro, i napoletani meritano un servizio di raccolta differenziata degno e se qualcuno lo impedisce, tutte le istituzioni si devono mobilitare, quindi anche l'esercito. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutti i diplomatici iraniani espulsi dalla Gran Bretagna in rappresaglia contro l'attacco all'ambasciata britannica a Teheran hanno lasciato Londra. Lo ha confermato il Foreign Office. Ma in caso di embargo petrolifero europeo verso l'Iran, cosa accadrebbe all'Italia? Sentiamo. Ho fatto un punto soprattutto sugli effetti di un potenziale embargo petrolifero europeo nei confronti dell'Italia e dell'Europa. E non sono buone notizie soprattutto per l'Iran. Per l'Italia. Noi siamo i paesi che importano la maggior quota percentuale sull'import complessivo di petrolio dall'Iran, 13,3% da gennaio a settembre 2011. Che cosa è accaduto? Praticamente per recuperare la perdita del petrolio libico ci siamo gettati su altri mercati. L'Azerbaigian è diventato il nostro primo importatore e l'Iran continua a fornirci petrolio. Il problema è stato il seguente, che se gli altri paesi europei hanno diminuito consistentemente gli approvvigionamenti dell'Iran in vista di potenziali sanzioni, l'Italia non ha fatto altrettanto, l'ha fatto ma molto poco e ora si ritrova esposta. Il tempo delle chiacchiere è finito, tra i 27 paesi membri deve scattare una vera solidarietà di fronte al crescente numero di migranti in arrivo a Malta e Lampedusa. Lo ha detto Cecilia Malmström, commissaria per gli affari interni, presentando il progetto per redistribuire tra gli stati membri i richiedenti asilo, che per il 75% gravano al momento su soli 6 paesi, Francia, Germania, Belgio, Gran Bretagna, Svezia e per l'appunto Italia. La Malmström propone di fornire assistenza finanziaria per facilitare la redistribuzione. Italia è in ritardo sulla rivoluzione digitale e molto lontana dagli obiettivi previsti dall'agenda europea. L'agenda digitale, il programma di azione dell'Unione Europea per lo sviluppo delle ICT e dell'economia digitale, ci richiede tra gli altri impegni di portare entro il 2013 al 100% della popolazione la banda larga, cioè connessioni superiori a 30 megabit per secondo, ed entro il 2020 al 50% della popolazione la banda ultra larga, 100 megabit per secondo. L'assenza dalla scena internazionale ed europea dell'Italia è uno dei temi del rapporto annuale sulla situazione sociale del paese, secondo il centro di studi Censis. Sentiamo. Siamo isolati ed eterodiretti. Isolati perché negli ultimi 3-4 anni non siamo stati più nei circuiti fondamentali del mondo, perché a livello di Europa ci estraniavamo sempre di più, perché sul Mediterraneo contavamo sempre di meno. Ci siamo isolati e l'isolamento è quello che ci porta poi all'eterodirezione, perché se sei isolato gli altri decidono per te. Devi appartenere a un circuito per contrattare e pensare di contare. Questo non può non rendere fragile un popolo, non può rendere un popolo in qualche modo vergognoso, e questo naturalmente crea quella forma di sottovalutazione, di cattiva reputazione di noi stessi che abbiamo coltivato negli ultimi anni. Al momento la Serbia non incontra le condizioni per il processo di adesione all'Unione Europea. Con questa dichiarazione la cancelliera Angela Merkel ha gelato le ambizioni di Belgrado di ottenere lo status ufficiale di paese candidato all'ingresso nell'Unione il 9 dicembre prossimo. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.